Dammi i tuoi anni, dammi le tue carezze, dammi i tuoi baci, musica e parole, dammi accordi, dammi le tue risposte, le tue certezze, quelle che non ho. Tutta una vita a schiarir la voce, e il nome mio nel silenzio non l'ho gridato. Tutte le corse per poi arrivare, dammi quella rosa. Tutta una vita a inseguire il vento, e qual era il suo mistero, non l'ho svelato. Cercare l'ombra per vedere cieli, dammi la pace, quella che non sei.